Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, buongiorno da Marta Cagnola. Ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio, lo sapete, è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Questa settimana siamo tornati in studio, siamo tornati a Milano dopo un bellissimo sabato che abbiamo passato insieme a Torino. Nella terza ora, come sempre, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma ora scopriamo i temi della prima ora che passeremo insieme. Il filo conduttore di questa puntata? Beh, i grandi uomini, gli uomini veri, insomma uomini con la U maiuscola. Scopriremo insieme perché. Intanto, come vi avevamo anticipato nella puntata dello scorso sabato, parleremo di consigli in fatto di ristoranti, guide, esperti versus siti e app. Ne parleremo appunto con due grandi uomini, due amici del sabato del villaggio, per una volta insieme, Enrico Pagliarini e Davide Paolini, il nostro esperto di tecnologie e il nostro gastronauta. Andremo anche per primi a fare una passeggiata sulle acque. L'ultima installazione di Cristola provata per noi, Simone Spezia, questa mattina ci racconterà tutto. Poi, come sempre, le uscite al cinema del fine settimana. Ma prima andiamo in Francia, almeno per ora, a festeggiare. Cerca ancora Zaza, bella la sponda di Zaza, Eder si infila, uno contro uno, Eder ce l'ha, Eder, 1-0! Ce ne andiamo agli ottavi, perché 6 punti sicuramente si portano agli ottavi, vedremo con l'Irlanda come giocarsela. Oggi sono felice, non solo per me ma per il gruppo, perché io lo so di quanto questi ragazzi qua del 18 maggio allo stage a Coverciano abbiamo lavorato per farci trovare pronto qua. Quindi siamo felici, non abbiamo fatto niente, però partire così con 2 vittorie sicuramente ci darà molta fiducia. Per noi è una cosa fantastica, ecco, essere riusciti a qualificarci per gli ottavi già dopo 2 partite, perché c'è la possibilità comunque di... E in più, ma ripeto, abbiamo raggiunto già comunque un obiettivo che comunque era stato messo in discussione. Quindi noi, questo ci deve dare gioia, ci deve dare felicità, ci deve dare entusiasmo. Gioia, entusiasmo, felicità. Beh, insomma, sono passate meno di 24 ore dalla partita dell'Italia. Io non voglio rubare il mestiere ai colleghi bravissimi di tutti i convocati, ma è giusto parlarne anche questo sabato, nel sabato del villaggio. Cosa è successo in queste ore dopo l'exploit di ieri dell'Italia? Io sono molto contenta di collegarmi con la Francia, col nostro Dario Ricci. Ciao Dario! Ciao, ciao Marta, allora, però ben ritrovata. La prima domanda è: Dario, come stai? Perché Dario sta affrontando degli europei tosti, perché ha avuto un piccolissimo infortunio, prima di partire, sì. Tutto bene? Io mi preoccupo, Sì, lo so, ma insomma le storie dei cronisti devono necessariamente lasciare il campo a quelle dei protagonisti. Però sai, noi ci sentiamo, approfittiamo, ci sentiamo in diretta e ci informiamo, No, va tutto bene, fortunatamente tutto bene. E meno bene invece, devo dire, il risveglio è stato dolce per l'Italia qui nel ritiro di Montpellier, e, tra l'altro qua piove tutti i giorni, quindi... Pochi istanti fa un vero e proprio acquazzone, anche stamattina durante il leggero allenamento di ripresa del lavoro, ancora pioggia, ma diciamo che La notizia del giorno è stata poi a togliere, a spegnere un po' il sorriso dopo questo bel successo sulla Svezia. È stato un infortunio ad Antonio Candreva, che Accidenti. comunque è giocatore tra quello che ha tra i piedi più educati del gruppo, insomma, e il classico adduttore destro che domani vedrai riempirà pagine e pagine di giornali perché non sembra un infortunio proprio banalissimo. Verrà monitorato giorno dopo giorno, però insomma non ci voleva perché appunto Candreva è giocatore importante. Devo dire, la notizia è arrivata nel corso invece di una mattinata molto, molto bella, molto piacevole perché l'allenamento è stato a sorpresa da Antonio Conte, aperto per tutta l'ora alla stampa. Di solito ci vengono concessi 15 minuti per sbirciare giusto i primi palleggi e poi veniamo sollecitamente invitati ad uscire dal campo d'allenamento. Invece questa volta tutta l'ora a vedere gli azzurri allenarsi, gli azzurri che ieri non hanno giocato, poi formazione integrata tra l'altro da alcuni giovani calciatori del Montpellier, che quindi insomma entusiasti di allenarsi con campioni di questo livello. Quindi il clima era questo qua, molto positivo, poi è arrivata questa notizia di questo infortunio che crea qualche Qualche apprensione, preoccupazione. insomma. Intanto siamo qualificati. Ecco, quella è la cosa più importante, che ci permetterà mercoledì a Lille, credo, di fare un turnover per risparmiare energie fisiche, quindi sicuramente Candreva si riposerà, Ecco. così come si riposeranno anche gli altri giocatori finora impiegati nelle due gare e soprattutto gli ammoniti, perché è importante non prendere proprio ora una seconda ammonizione perché vorrebbe dire saltare, essere squalificati proprio per la partita a eliminazione diretta con gli ottavi, che dovrebbe essere a questo punto molto probabilmente se l'Irlanda non dovesse battere praticamente in questi minuti il Belgio, perché Belgio e Siamo Irlanda ancora sono in sullo campo a 0-0, ma Bordeaux. siamo al sesto minuto, quindi è appena Esattamente, iniziata. infatti. Se l'Irlanda non dovesse vincere, noi saremmo primi nel gruppo E e molto probabilmente andremo a incrociare la Croazia, che è già stata nostra rivale nel girone di qualificazione e che, oltre ad avere dei campioni non da poco, c'ha anche il problemino Hooligans. Quindi ci incroceremo il 27 giugno a Parigi, a Saint-Denis, con una Croazia che è chiamata anche a gestire questo problema. Ieri, insomma, contro la Repubblica Ceca, gli hooligans hanno dato a loro modo spettacolo. È prevista una pesante ammenda in arrivo, ma certo è una situazione che toglie parecchia serenità ai biancorossi guidati da Che però sono molto Rakitic, forte, che però sono molto Mandzukic. forte. Sono Ti forti dico perché questi un croati sanno retroscena e lo tantissimo. racconto anche agli ascoltatori. Ieri stavamo guardando più o meno tutti insieme la partita con i colleghi qui a Radio 24, come credo si stia fatto in tutte le redazioni, in tutti gli uffici d'Italia, tra un impegno lavorativo e l'altro. E c'era Giuseppe Cruciani che continuava a bofonchiare: no, no, non dobbiamo vincere perché sennò poi incontriamo i croati e i croati sono forti, no, non dobbiamo essere primi nel girone. Continuava a dire così Giuseppe. Ma In io direi maniera un po' più che colorita rispetto a quello che sto dicendo, se lo immagineranno gli ascoltatori. No, secondo me invece vincere fa sempre bene, soprattutto a una squadra che non ha un vissuto particolarmente profondo, no? Come questa squadra. È arrivata tra lo scetticismo, con poca fiducia a spingerla, no? Da parte dell'ambiente, dei critici, anche con critiche legittime, perché non siamo certo la squadra con i giocatori più forti di questo europeo, però ogni volta che vinci, conquisti fiducia e poi comunque magari qualcuno si starà anche preoccupando di dover giocare contro questa Italia, magari proprio anche i croati non saranno contentissimi, no? Quindi poi da adesso in poi, insomma, se vuoi far bene in queste competizioni, con quelli forti prima o poi devi giocarci, Ah quindi beh meglio, certo, perché anche per andare perché avanti ormai la ricetta è solo una, vincere. Una volta anche passato perché adesso il ormai. girone non si può fare altro. Sì, anche perché poi adesso l'alternativa sarebbe appunto al netto del risultato dell'Irlanda, che credo difficile che batta il Belgio, ma stiamo a vedere, sarebbe o Spagna o Croazia, quindi a quel punto Belgio o Croazia, insomma. Dario, come hai visto queste squadre? Secondo te al momento, cioè, chi ti ha stupito, chi ti ha deluso e chi ti è piaciuto particolarmente? Ma devo dire che tra le big o presunte tali, quella che mi è piaciuta di più è proprio la nostra squadra, perché è quella che meglio si è comportata rispetto ai propri limiti, alla consapevolezza degli stessi, insomma, no? Dalla Francia ci aspettavamo grandi fuochi d'artificio e sono arrivate due sofferte vittorie contro Romania ed Albania. L'Inghilterra ha sofferto altrettanto pur giocando un calcio a tratti discreto. La Germania neppure ha convinto. Forse ecco, ieri la Spagna che ha asfaltato la Turchia ha un po' rimesso le cose a posto e finora è quella che sta procedendo con un passo più regolare, quindi direi Italia e Spagna finora il meglio. E, beh, tra le delusioni, sicuramente un Portogallo che si fa bloccare dall'Islanda è stato abbastanza sorprendente, considerando che portoghese è Cristiano Ronaldo, il fresco campione d'Europa, quindi insomma per club. Quindi dai portoghesi ti aspetti sempre qualcosa in più, visti i nomi. Tutti si erano improvvisati fan dell'Islanda, insomma, una di quelle squadre che fanno immediatamente simpatia. Intanto, non ho ancora dato i nostri numeri, le nostre coordinate 349-238-6666 per gli SMS e per i WhatsApp, e poi c'è anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola. Dario, i prossimi giorni, allora, cosa succederà? Beh, allora, intanto ci prepariamo a questa trasferta di Lille che comunque è impegnativa sia perché finora siamo stati, diciamo, nella zona sud della Francia, tra Lione e Tolosa. Tolosa che tra l'altro ci ha accolto benissimo, città veramente a misura d'uomo, così come il suo stadio, veramente un piccolo gioiellino, una bomboniera. Invece si va a nord, si va a Lille, che finora, ahilei, è entrata nelle cronache di questo europeo, soprattutto per gli scontri tra gli hooligans, russi, gallesi e inglesi, che ha ospitato. Finora le partite dell'Italia invece sono state una grande festa, per merito dei tifosi azzurri e di quelli degli avversari che abbiamo incontrato. Speriamo, ecco, di regalare a Lille una serata intanto di solo calcio, di una festa del calcio. E poi si comincerà un po' a preparare questo ottavo di finale, diciamo, segnato nell'agenda al circoletto rosso, ore 21 del 27 giugno, Parigi-Saint-Denis, quindi cominceremo a preparare anche questa trasferta. Qua ci si muove molto, diciamo, con spirito garibaldino, cara Marta. Siamo Posso tre immaginare, colleghi in ecco, macchina. perché questo, Infatti, adesso ecco, alla voi fine cosa, del come, collegamento cominciamo a progettare la trasferta. infatti sono Siamo un po' curiosa di capire come vi spostate, cioè in macchina voi poi andrete a Parigi per il Sì, 27 diciamo che giugno. siamo proprio tre uomini e una gamba. La gamba l'ho portata La io, il gamba gambone buona col tua tutore. una, oh povero Poi Dario. abbiamo Andrea Capretti di Radio Sportiva, Maurizio Pizzioferrato dell'Agenzia Aria, che sono colleghi straordinari sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista dell'amicizia personale. E ci si muove così, insomma, anche per scoprire questa Francia che chiaramente via TV vediamo molte immagini da cartolina e noi piano piano andiamo a scoprire qualcosina in più con queste piccole traversate. Devo dire, anche questo è il bello di queste esperienze, mi fa piacere No, infatti raccontarvelo perché a me insomma. fa piacere farti raccontare perché poi noi vediamo sempre il lato, tra virgolette, agonistico, cioè proprio il Brava, lavoro, brava. ma non sappiamo come funziona il dietro le quinte. Tra l'altro Sì. mi prendono in giro, Marta, perché sto diventando campione di entrecotto. Io ormai vado No! avanti a una bistecca al giorno, tutti temono anche per il mio colesterolo, Beh, ma no, ma non perché ti sei so come. fatto male, devi stare, diglielo, devi Devo rimetterti in tenermi su, devo forze. tenermi su, insomma. Ok, poi Ecco, allora quindi. ci darai anche tutti i consigli culinari per le entrecôte che hai mangiato in Assolutamente. Francia. Grazie, grazie Dario, mi fa sempre piacere sentirti e raccontare anche un po' di retroscena dell'inviato sportivo, perché deve essere una vita veramente così appassionante, Singolare. Sì, singolare, singolare ma singolare. appassionante. Grazie a Dario Ricci. Allora, Belgio Irlanda ancora Grazie a sullo te. 0-0, io urlo se per caso Sì, succede sì, sì. qualcosa, anche voi sarete Brava, lì brava. Sì. a Noi siamo qua seguirlo. davanti, stiamo studiando tutte le tattiche. Sì, io stavo studiando anche i giocatori, stavo pensando, ma proprio le due maglie più brutte, mamma mia, che brutte maglie che hanno, vabbè, vabbè, non importa. Dario, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo al Grazie a più te. presto, grazie per questo collegamento diretto dagli europei, grazie a Dario Ricci. Ciao, ciao. E noi ci risentiamo tra poco, una brevissima pausa e poi ve l'ho promesso una sfida. App e siti contro consigli degli esperti e consigli delle guide. Si parla di ristoranti e tra poco lo faremo al Sabato del Villaggio. Il sabato del villaggio.

siamo arrivati su queste passerelle galleggianti. Cosa sono? Sono 3 chilometri di passerelle galleggianti fatte in polietilene, con cubi di polietilene, sono 220.000, pensa, e ricoperti da 70.000 metri quadri di tessuto, un tessuto cangiante particolare che usa Cristo, e vanno da Sulzano a Monte Isola. Monte Isola è un'isola nel mezzo del lago d'Iseo, che è il sesto lago italiano ed è la più grande isola lacustre abitata d'Europa, e poi da Monte Isola proseguono, arrivano all'isola di San Paolo, che è un'isola di proprietà privata della famiglia Beretta, che ha concesso questo, la possibilità degli industriali, ha concesso la possibilità di, come dire, far circondare l'isola da queste passerelle, e poi da là sostanzialmente si torna indietro. Io ci ho camminato, devo dirti la verità, un'esperienza molto divertente e molto bella e molto particolare. Le passerelle sono molto larghe, sono larghe, quindi non bisogna avere paura. No, non bisogna avere paura, sono larghe 16 metri, però Cristo ha voluto che fossero come una sorta di spiagge, quindi in realtà i cubi laterali, per così dire, digradano lievemente verso l'acqua. Ok, senti Simone, quindi, siccome abbiamo pochissimo tempo, domani però ce lo racconti a Radio 24, reportage domattina? Sì, domattina c'è reportage, 8:15, abbiamo fatto un bel racconto soprattutto della notte, che è anche stata questa notte di attesa, che è stata molto divertente. Allora, appuntamento con Simone Spezia e questa esperienza straordinaria domattina 8:15. Grazie Simone, noi adesso parliamo di cinema. Il mondo è in pericolo e tocca a noi fermarli. Water! Se c'è uno che sa cosa vogliono fare, è Grande Aquila. Il lago della saggezza di Grande Aquila! Uscite da lì! Non spruzzargliela in bocca! No, non risputargliela! Ah, non mandarla giù! Vabbè. Orribile serie di eventi. Orribile. Who's bad? E questo è un frammento di un film molto atteso, e molto atteso da chi ama i cartoni animati, ma anche da chi ama o amava un certo giochetto, un certo gioco elettronico. Angry Birds è uscito al cinema questo fine settimana, ma vale la pena andarlo a vedere? Lo chiediamo al nostro Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao Marta, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori. Direi decisamente di sì, è un'operazione interessante questa di Angry Birds, che sebbene il film sia totalmente diverso, si rivolga a un pubblico diverso, le atmosfere siano opposte, però ricorda un po' l'operazione fatta solo qualche settimana fa con Warcraft, cioè un grande videogioco, uno dei più giocati di tutti i tempi, che arriva al cinema. Quando succede questo, quando l'operazione è questa, è chiaro che è un'operazione che parte da motivi totalmente commerciali, bisogna riuscire a fare una cosa, a prendere l'anima vera del gioco e a farla uscire da quello schema di ripetitività del videogame per farla entrare in una narrazione cinematografica. Questa non è un'operazione facile, non è sempre riuscita. E devo dire che invece anche questa volta in Angry Birds, esattamente come in Warcraft, per motivi diversi, è riuscita. E questo chiaramente ci aiuta a farne uno dei titoli consigliabili di questo weekend. Intanto perché appunto è sicuramente un titolo family. Poi perché qui gli sceneggiatori sono andati dietro la grande domanda: perché questi Angry Birds sono così angry, sono così arrabbiati? Cosa c'è dietro la rabbia di questi uccelli che nel videogame ti bersagliavano da ogni direzione? E la storia ci porta proprio su questa isola popolata da volatili, da uccelli felici, che però non sanno volare, e chiaramente dentro questo paradiso c'è un uccello con problemi di controllo della rabbia, quindi uno da comunità, per intenderci, che così deve essere un po' capito, compreso, per poter spiegare l'arcano. E poi questo fine settimana esce un film di uno dei miei registi preferiti in assoluto, Xavier Dolan, Laurence Anyways, un film, Franco, a chi lo consigliamo? Ma guarda Marta, lo consigliamo a chi ama il cinema. Chiaramente Xavier Dolan è un regista, a parte che è appunto un genio, e chiaramente lo dico anche, daremo molto spazio a questo film durante La Rosa Purpurea, perché con Boris Sollazzo abbiamo anche azzardato dei paragoni, perché qui non possiamo più limitarci a raccontare i suoi film. Bisogna cominciare a dire alla gente che qui dobbiamo inserire questo regista dentro un contesto della nostra cinematografia contemporanea, con un ruolo che è quello di uno dei registi più capaci di innovare, più capaci di cambiare il linguaggio, che è la cosa più difficile da fare nel cinema, chiaramente, oggigiorno. Ricordiamo sempre che Dolan ha 27 7 anni, è del 1989, è già arrivato a fare 4-5 film di livello totale. Questo, Laurence Anyways, è un film del 2012 che in Italia non era mai uscito, ma che fortunatamente adesso invece viene portato in sala da Movies Inspired, proprio perché c'è bisogno di vederlo questo regista. E la storia qui è straordinaria, ancora una volta toccante, ancora una volta fuori dagli stereotipi, sia per la narrazione sia per l'estetica. È la storia di un uomo, Laurence, che il giorno del suo 30° compleanno rivela alla sua fidanzata di voler diventare una donna. Chiaramente sconvolge tutti, sconvolge la sua fidanzata, la sua famiglia, i suoi, neanche tanto i suoi studenti, perché è un professore universitario. Però c'è una capacità da parte di Xavier Dolan di affrontare questo discorso così delicato, sapendo cogliere le sfumature, che è davvero magica. È grandissima l'interpretazione di Melville Popò, e devo dire anche grandissime le immagini che Dolan ti sa regalare. Cioè non è solo la storia che è forte, ma è come lui la racconta, è le situazioni in cui inserisce i suoi personaggi. Davvero un grande film. Bisogna coltivare questo tipo di registi per capire qual è oggi il gota della cinematografia mondiale. Poi abbiamo consigliato un film a chi vuole andare in famiglia, con i bambini, con i ragazzi, un film per gli amanti del grande cinema, ma c'è anche una commedia in sala? Ma sì, guarda, è una bella settimana questa, Marta, devo dire, perché il livello medio dei film è alto e i registi si stanno riprendendo la scena. Abbiamo parlato di Dolan, parliamo anche di Richard Linklater, un altro che l'anno scorso, 2 anni fa, anzi per la precisione, con Boyhood, aveva innovato, rivoluzionato la logica del film, no? In quel caso era riprese per 10 anni degli stessi personaggi veri per farlo diventare il film della vita. Aveva commosso, aveva emozionato. Qui allora fa uno stacco totale da quel film. Dice, racconta una commedia, un college movie. 1980, un ragazzo arriva al college, prende possesso della sua stanza condivisa con gli amici del baseball e vive un anno di college. È un college movie firmato Richard Linklater, e quindi dove c'è anche un'attenzione a come far progredire il racconto, a come non degenerare in un film, in un popcorn movie. Ecco, è sicuramente una commedia, è sicuramente divertente, non è per forza un popcorn movie, ha anche dei contenuti, e quindi direi veramente cosa chiedere di più. Grazie Franco, dunque l'appuntamento con te è con La Rosa Purpurea dopo il giornale radio delle 18 più tardi. Un saluto a tutti. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Il sabato del villaggio. E inizia la seconda ora del nostro sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio. Subito i numeri per i vostri sms e whatsapp: 349-238-6666, il mio account di Twitter, @MartaCagnola. Grazie ai messaggi che ci sono arrivati per la nostra disfida Paolini Pagliarini su guide tradizionali, consigli o app per scegliere i ristoranti. Grazie a chi ci ha scritto che siamo stati chiari, siamo stati bravi. Beh, insomma, mi sembra utile essere il più chiara possibile su questi argomenti, anche se ovviamente una ragione definitiva, un vincitore non l'abbiamo potuto decretare. Poi c'è Nonna Pina da Verona che ci scrive: cara Marta, ma cos'è successo a Dario? Ti prego fallo sapere, perché io sono vecchia e mi preoccupo di voi ragazzi. Grazie Nonna Pina. Allora, il nostro Dario Ricci, col quale ci siamo collegati all'inizio del sabato del villaggio per parlare di europei, tra l'altro ha appena segnato il Belgio. Dario si è fatto male a una gamba prima di partire, quindi sappiamo che poi quando si viaggia per lavoro in condizioni fisiche non perfette bisogna fare un po' fatica e farsi un po' aiutare dagli altri, ma come abbiamo sentito Dario sta affrontando brillantemente questi europei, bravo Dario. E poi appunto tanti i messaggi su questo argomento, guide contro app contro esperti, dovremo tornarci perché capisco che è un argomento che sta appassionando. Ma ora scopriamo i temi della seconda ora del nostro sabato del villaggio, filo conduttore sempre quello degli uomini veri. Quanti uomini abbiamo avuto nella prima parte del sabato del villaggio? Tutti uomini, in realtà no, adesso ci saranno un po' più di donne nella seconda parte, come sempre. Intanto parleremo di moda maschile, ma anche avremo un fashion blogger da conoscere, tutto questo nello spazio di Maria Luisa Pezzali. Ovviamente consigli letterari per tutti da Alessandra Tedesco, parleremo anche di serie TV, serie che partono, serie che si concludono. Abbiamo incontrato in questi giorni alcuni grandissimi attori, bastano i nomi: Pier Francesco Favino e Salvatore Esposito. Ma prima partiamo parlando di cinema. Pulls the blood that I've collected, you gotta soak that shit up. Jimmy, we need to raid your linen closet. I need blankets, I need comforters, I need quilts, I need bedspreads. The thicker the better, the darker the better. No whites. Can't use them. We need to camouflage the interior of the car. We're gonna line the front seat and the back seat and the floorboards with quilts and blankets. So if a cop stops us and starts sticking his big snout in the car, the subterfuge won't last. But at a glance, the car will appear to be normal. Jimmy, lead the way. Boys, get to work. Please, would be nice. Sette anni, capelli imbiancati, la voce roca, rughe profonde e tanto, tanto fascino. Stiamo parlando di uomini veri, grandi uomini, uomini con la U maiuscola. Al Taormina Film Fest in questi giorni abbiamo incontrato uno dei più grandi attori contemporanei, Harvey Keitel. Dai primi film con Martin Scorsese, il primo addirittura nel 1967, ai Duellanti, L'ultima tentazione di Cristo, Thelma e Louise, Le Iene, Lezioni di piano, appunto Pulp Fiction, Mr. Wolf. A Taormina Harvey Keitel ha parlato del mestiere dell'attore e del cinema italiano che ha frequentato per anni, fino ad arrivare all'ultimo film di Paolo Sorrentino che l'ha voluto protagonista, lo ricorderete, di The Youth, accanto a Sir Michael Caine. Harvey Keitel. Well, I can only be grateful for the Sorrentinos and the Tarantinos of the world. Posso solo sentirmi grato che in questo mondo ci siano dei Sorrentino e dei Tarantino, perché il cinema italiano fin dai suoi inizi ci ha dato un senso di realtà, di verità. Penso ad esempio a Roma Città Aperta, ai film di Pasolini su Gesù, alcuni dei primi film che io abbia mai visto. Hanno iniziato a mettere in campo la realtà e così abbiamo cominciato a pensare che stavamo tutti ragionando in maniera superficiale. I Pasolini e i Rossellini erano così forti che non ti permettevano di essere banali. Ecco cosa c'è di grande nel cinema italiano. Ecco da dove arriva Scorsese, da dove arrivano Tarantino e tutti gli altri. Se pensate al cinema che avete oggi, Sorrentino e il regista di Gomorra, Garrone, vedete che la grandezza del cinema italiano è ancora con noi. So you have the Italian greatness is still around. Qui a Taormina lei ha parlato del mestiere dell'attore, ha detto che ci può aiutare a cambiare la società, che il cinema ci può aiutare a salvarci, è così? Well, I think it's only through the art, only through the arts. Lo dico di tutte le arti. Non dico che possano farlo da sole, ma certo non può salvarci da sola la politica. L'arte è un'arma formidabile nella guerra contro l'intolleranza, il razzismo, il pregiudizio. Vedo questo nella mia personale osservazione dell'esistenza, i casi della vita. Osservo che persone che ho incontrato, gli amici, le persone che cercano di fare più di quello che facevano prima perché hanno capito che c'è un modo migliore di fare le cose. Ed è arrivato il tempo di riconoscere che ci sono altri modi di vivere nel mondo. Ce ne rendiamo conto di fronte ai massacri che vediamo. E la rigidità che si sta imponendo in tutto il mondo non è un buon esempio. Dobbiamo impegnarci per sciogliere questa rigidità che si sta diffondendo dappertutto in maniera così prepotente. Siamo tutti sotto attacco da discipline rigide, da religioni. Ogni lavoro che faccio è un'opportunità per esplorare quanto io sia rigido, quanto io ritrovi in me le vecchie abitudini del ragazzo di Brooklyn che sono ancora dentro di me. Quando le riconosco attraverso i miei studi, le mie riflessioni, mi sento cambiato. Sento che qualcosa dentro di me mi dice che sono sul giusto cammino, perché mi sento più libero, più fluido, più generoso verso gli altri che egoista. Presto lei sarà in sala con due film, Lies We Tell con Gabriel Byrne e The Comedian con Robert De Niro. Cosa ci può già rivelare di questi due film? Actually, it's not my In realtà non racconto mai niente dei miei film perché mi piace che la gente veda i film e mi dicano loro cosa pensano. Non voglio influenzare nessuno, anche qui non voglio obbligare nessuno a pensarla in un certo modo. Bello, ve lo confesso, incontrare Harvey Keitel, uomo molto molto affascinante, si capisce anche da questa voce, e con un sacco di racconti, di aneddoti, ha parlato veramente della sua carriera d'attore in maniera molto emozionante e davvero entusiasmante. Harvey Keitel, che era uno degli ospiti del Taormina Film Fest, ci torneremo più tardi perché a Taormina abbiamo anche incontrato uno dei grandi protagonisti di una delle serie del momento. Parleremo, come vi anticipavo, anche di serie TV in questo Sabato del Villaggio, serie che si sono appena concluse, serie che inizieranno, e quindi già qualche indizio ve l'ho dato. Ci saranno degli attori veramente, anche quelli molto affascinanti, grandi uomini, uomini veri, uomini con la U maiuscola, che è il nostro tema di questo Sabato del Villaggio. Ci ritroviamo tra poco. Io ringrazio ancora Nonna Pina, che ci ha spiegato che lei ci ascolta mentre prepara la cena per figli e nipoti che si ritrovano il sabato sera. Nonna Pina, quando veniamo da quelle parti, da Verona, se ci invita noi arriviamo anche noi alla grande cena dei figli e nipoti, mi piace molto. Adesso è il momento del traffico, ci ritroviamo tra poco. Il Sabato del Villaggio. E al Sabato del Villaggio è ancora il momento di grandi uomini, di uomini veri, di uomini con la U maiuscola, ma soprattutto è il momento dei libri. Seguiamo in questa puntata dedicata agli uomini veri, ai grandi uomini, insomma uomini, chissà se esistono davvero, se ci limitiamo a sognarli. Beh, un po' ne abbiamo avuti e un po' ne avremo ancora in questa puntata del Sabato del Villaggio. Chissà cosa ne pensa la nostra esperta di libri, sono convinta che ci abbia trovato anche dei bei libri a tema, ma non solo. Alessandra Tedesco, ciao Alessandra. Ela, non sono un uomo vero, ma sono una donna vera, una grande donna. E dici poco. Scusa, dobbiamo riaffermare, stiamo parlando sempre di uomini in questa puntata oggi, allora grandi anche donne, grandi uomini. Una prima ora con un sacco di uomini, invece la seconda ora abbiamo un sacco di donne, un sacco di voci femminili. Alessandra, però so che vuoi partire dal libro della settimana, ne stanno parlando tutti. Sì, guarda, ne stanno parlando veramente. Dammi delle coordinate per capire. Coordinate, allora, lei è una scrittrice americana che ha vinto il Pulitzer con Olive Kittredge. È presente quello da cui fu presa anche una serie TV? Quanto era carina quella serie. Bella. Quindi lei si chiama Elizabeth Strout. Il romanzo di cui si sta parlando molto in Italia in questo periodo è Mi chiamo Lucy Barton, pubblicato da Einaudi. Vediamo di chi è la traduzione. Traduzione di Susanna Basso. È un libro, come dire, anche commovente, insomma, a tratti. È la storia sostanzialmente di una madre e di una figlia. La figlia viene ricoverata banalmente in ospedale per un'appendicite, insomma niente di grave, poi ha delle complicazioni e deve rimanere in ospedale, e la madre va a trovarla. Iniziano questo dialogo che avevano un po' perso, come un rapporto madre-figlia, sai, che si perde dopo tanto tempo e si ritrova dopo tanto tempo. Vorrei proprio leggerti uno dei commenti che mi ha più colpito su questo romanzo. Un romanzo perfetto, ha scritto una giornalista del New York Times, nelle cui attente parole vibrano silenzi. Mi chiamo Lucy Barton, offre una rara varietà di emozioni, dal dolore più profondo fino alla pura gioia. Accidenti. Non avrei potuto dirlo accidenti. Meglio, sinceramente. Quindi mi sono affidata alle parole del New York Times perché le condivido in pieno, sinceramente. Elizabeth Strout, mi chiamo Lucy Barton, pubblicato da Einaudi, consigliato a donne ma anche a uomini, veramente anche a grandi uomini che sanno capire l'empatia e la particolarità che, e la profondità che ci può essere in un rapporto madre-figlia, quando viene interrotto, quando viene ripreso o quando chi ha la fortuna è sempre stato bello. Fammi fare una considerazione banale. Per la prima volta, dopo un po' di tempo, non è un librone enorme da leggere, perché ultimamente i libri da leggere, i libri del momento, sono arrivati anche a superare le 1000 pagine. Questo, e so che molti si spaventano, ma giustamente non tutti hanno tanto tempo da dedicare. No, questo, guarda, è 150 pagine. Ecco, quindi... questo può essere un bel libro da fine settimana, ecco, non richiede... Assolutamente sì. Voglio essere anche un po' pratica in questi consigli. Giusto, mi tocca essere giusto. Anche un po' pratica, anche perché io sono arrivata a metà della scuola cattolica di Albinati, lo sto leggendo poco alla volta e quindi... Io sono arrivata a tre quarti, sono arrivata a tre quarti. Sublime, magnifico, però ci vuole del tempo. Tra l'altro parla di molto di uomini quel libro, perché parla veramente dell'educazione emotiva e sessuale dei maschi in un liceo romano degli anni 60 più o meno, siamo lì gli anni 60-70, siamo negli anni 70 più che altro, quindi anche lì si parla veramente di uomini, magari poco grandi, però insomma di uomini si parla. Ebbene sì, Gigi Riva, l'ultimo rigore di Farouk, leggo dal libro che hai tra le mani, si parla di calcio dunque? Il libro alla radio. Facciamo sentire. Sì, questo è veramente un libro, diciamo, sui grandi uomini, come il tema di questa puntata. L'ultimo rigore di Farouk, una storia di calcio e di guerra, pubblicato da Sellerio. L'ha scritto Gigi Riva, che è caporedattore centrale del settimanale L'Espresso, è stato anche inviato speciale del Giorno, aveva seguito le guerre nei Balcani negli anni 90. E la storia di un rigore sbagliato. Quindi perché ne parliamo? Stiamo parlando appunto di uomini, è il periodo degli europei di calcio e questa è una storia particolarmente intensa, perché questo calciatore della ex Jugoslavia, perché è stato l'ultimo mondiale di calcio, quello italiano, Italia 90, nel quale la Jugoslavia partecipava ancora come squadra, come, diciamo, unita, sì, come Jugoslavia, era il 30 giugno del 90 a Firenze e Farouk, capitano appunto di questa ultima nazionale, deve tirare questo rigore, lo sbaglia, la partita è quello contro l'Argentina di Maradona nei quarti di finale e così la squadra della Jugoslavia fu eliminata. Ci furono alcuni che interpretarono questa eliminazione anche come dire la miccia che fece esplodere poi le tensioni etniche, o meglio qualcuno pensa che un'eventuale vittoria in quella partita avrebbe potuto cambiare qualcosa. Sì, avrebbe potuto ricompattare i vari aspetti etnici e le tensioni della Jugoslavia dell'epoca. Insomma, si ricostruisce la storia di questo Farouk, dei suoi compagni di calcio e naturalmente della guerra che iniziava in quel periodo. Vedo che hai altri altri volumi davanti a te, sempre in tema uomini duri, uomini veri, uomini grandi. Mani sul volante, non vi spaventate uomini, perché questo invece è per il tema non vi spaventate uomini. Non vi spaventate uomini, non voglio rubare il mestiere a Nicoletta Carbone, ma a zia Nico, grandissima. Diciamo che gli uomini sottovalutano spesso la propria salute, mettiamola così, non sono molto attenti come le donne, soprattutto la salute del cuore. Allora ho scelto questo libro che è molto divertente, in realtà ironico, anche se scientificamente tutto corretto, che si chiama Batticuore, tutto quello che occorre sapere sull'organo più importante del corpo umano, scritto da Johannes Heinrich von Borstel. Quindi dopo l'intestino felice il cuore felice? Brava, hai capito bene, pubblicato da Sonzogno. Dopo il successo dell'intestino felice dell'anno scorso, questa volta un libro scritto in maniera semplice, accattivante, anche ironico, divertente, con episodi personali, da un giovane specializzando in cardiologia molecolare, che racconta fatti, insomma, che lo riguardano, ma fatti veri che riguardano la salute del cuore, che riguarda uomini e donne, ma insomma sappiamo che gli uomini sono più sensibili a questo tema e allora ho detto, dedichiamo un libro sulla salute dell'uomo ridendo, sorridendo naturalmente. So che è una segnalazione che però è quasi un appello. Sì, è un appello, perché io ho a casa un libro bellissimo che si intitola Uomini Veri. L'aveva scritto Alvaro De Emilio. All'epoca, vi parlo più di 10 anni fa, l'aveva pubblicato Baldini e Castoldi. Un libro molto molto ironico sugli uomini, sulla mascolinità, sulla loro sessualità, ma non viene più pubblicato. No, neanche in ebook, no, non esiste. Purtroppo no, non è più pubblicato. Allora il mio consiglio è, se riuscite a trovarlo, questo Uomini Veri, sui banchetti dei libri usati, nelle librerie che vendono libri usati, non perdetelo, fatevelo prestare, magari c'è qualche amico che ce l'ha nella sua libreria, perché è uno dei libri che mi ha fatto più ammazzare dalle risate, scritto con grande autoironia da un uomo sugli uomini. Ho guardato, e su eBay qualche copia c'è. Ah, quindi, vedi, su eBay, infatti si trova, perché non è più pubblicato. Qualcuno può ancora trovare questo Uomini Veri di Alvaro De Emilio. Provocazioni, perché io dico uomini, ma vedo femmine lì, anzi femministe. Vabbè, allora mi hai stuzzicato, Uomini Veri, grandi uomini, e allora ho scelto Autobiografia di una femminista distratta, scritto da Laura Le Petit per Nottetempo. Ora, al di là del titolo, eccetera, è veramente una bella storia di questa intellettuale femminista che ha diretto per tanti anni la casa editrice La Tartaruga, che purtroppo non esiste più, casa editrice che aveva pubblicato scrittrice del calibro di Virginia Woolf, Gertrude Stein, Doris Lessing, Alice Munro, insomma veramente grandissime scrittrici. E lei racconta la storia un po' personale di questa casa editrice, della pubblicazione di questi libri di donne, in maniera anche molto leggera. Quindi, visto che parliamo di uomini, parliamo anche di questa autobiografia di una femminista distratta. Molto bene, per concludere il nostro consiglio per ragazzi, per bambini e ragazzi. Bambini e ragazzi con genitori magari nostalgici. Vi ricordate La Freccia Nera? La Freccia Nera è il romanzo, insomma, di Stevenson, quello ambientato nell'Inghilterra della Guerra delle Due Rose, si diceva, sì, se non erro. Sì. Il protagonista era Dick, questo ragazzino. Io sto dicendo che il protagonista era Aldo Reggiani con Loretta Goggi, perché c'era stato quel famoso sceneggiato prima che nascessimo, prima non eravamo ancora nate, però io non ero nata, se no, ne parlava molto, se ne parlava molto, però non eravamo ancora nate. Non eravamo nate. E La Freccia Nera naturalmente è stato rivisto, dicevamo, il protagonista è Dick, questo ragazzino che si accorge che, insomma, la morte di suo padre è responsabilità del suo tutore, lui vuole a questo punto ucciderlo a sua volta, quindi fugge e si mette insieme ad una banda di fuorilegge chiamata Freccia Nera. Insomma, è un romanzo avventuroso, ne sono state fatte tantissime edizioni, l'ultima, diciamo, rivista per bambini, e a firma Geronimo Stilton. Hai presente il topo? Vabbè, ma va il topo di moda, dunque, Geronimo Stilton. Sì, non passa mai di moda. Non passa mai di moda. In questo caso è la rivisitazione di un classico, La Freccia Nera di Stevenson, rivisto da Geronimo Stilton, pubblicato da PM, quindi scritto in maniera sempre molto carina, divertente, semplice per i bambini, con parole scritte un po' più grandi, insomma, graficamente anche attraente per i bambini, per far conoscere un classico. Età? Guarda, io dico dai 6-7 anni in su. Ah, fantastico. Sai che nel frattempo ho prenotato Uomini Veri in biblioteca, perché io vado L'hai tanto trovato? In biblioteca. Sì, la mia biblioteca ha un sistema di prenotazione online, mentre parlavamo l'ho già prenotato, quindi me lo leggo volentieri. Poi mi dirai, perché io mi ricordo come uno dei libri con i quali ho riso di più dei maschi. E ricordiamo anche, appunto, l'esistenza delle biblioteche, che sono sempre Giusto. Dei luoghi magici. Alessandra, grazie per essere stata con noi. Il podcast, il cacciatore di c'è libri. C'è sempre, la mattina alle 6:30 del sabato, alle 22 c'è il podcast, sentitelo quando volete. E poi il sabato del villaggio, sabato prossimo, ciao Alessandra. Baci. Tensione, sfida, traguardo, ripasso, rito, emozione, ansia, in poche parole, maturità. A Radio 24 torna la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e vi aspetto martedì 21 giugno dalle 21 alle 24, insieme alla cantante Chiara De Lo Jacobo. Notte! Ore in diretta con le voci dei maturandi, i racconti dei personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e i ricordi degli ascoltatori. La notte prima degli esami, una notte di passione. Maturità. Info su radio24.it in collaborazione con scuola.net. Il sabato del villaggio. Beh, mi distraggo un attimo parlando di libri e il Belgio fa altre due reti. Belgio-Irlanda 3-0. Di Euro 2016 abbiamo parlato all'inizio della trasmissione con il nostro Dario Ricci. Adesso ci sono tante altre pagine da aprire. Più tardi parleremo di serie TV. Poi ci sarà un appuntamento speciale di RadioTube dedicato alla storia del varietà con un ospite grandissimo. Adesso però, sempre con il nostro filo conduttore dei grandi uomini, degli uomini veri, apriamo la pagina dei consumi. Ed è sempre grandi uomini, uomini veri, insomma uomini con la U maiuscola, il filo conduttore di questo sabato del villaggio. E secondo me è un tema che si può ritrovare anche nei consumi. Lo chiediamo subito alla nostra Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Cosa ti è venuto in mente quando ti ho detto uomini veri, grandi uomini, uomini appunto con la U maiuscola? Beh, questa è la settimana di PT Uomo. Ah, che... beh, se non li trovi lì. Il salone termometro delle nuove tendenze della moda maschile. Allora ho cercato di tirare un po' le somme, per così dire, di quello che si è visto, individuando qualche punto fermo, visto che anche gli uomini veri vanno a fare shopping durante i saldi, ma certo, che si stanno avvicinando, insomma, quindi avere qualche indicazione sull'aspettativa di vita, chiamiamola così, dei capi di abbigliamento, degli accessori per i prossimi mesi, insomma, può dare qualche consiglio prezioso per capire su cosa puntare. Allora, sì al cardigan. Bene. Sì alle sneaker, perché sì, la sneaker mania non è finita, impazza nel tempo libero così come in ufficio, sotto il completo business. A te piacciono, Marta, gli uomini che mettono la sneaker col completo elegante? Se sono belli, sì. Vabbè, giochi facile, come sì, dire. Molto di tendenza per le sneaker, i modelli vintage rivisitati, e poi in alternativa c'è il mocassino. Dobbiamo precisarlo, parliamo ovviamente della moda per l'estate, siamo in anticipo di un anno rispetto alle collezioni che arriveranno nei negozi. No, alle cravatte ormai, insomma, le cravatte. Basta cravatta. Se ne vedono sempre di meno, se ne vedono veramente sempre di meno. Sì alle camicie, ma in micro fantasie e non bottom down, quindi se devi fare un regalo, Marta, non bottom down. No, assolutamente. E poi come colori, perché insomma, come sempre, le tendenze nella moda parlano anche di colori, sia il blu, tinte naturali, il verde bosco e il rosso ciliegia, così mi piacciono, insomma, sì, mi piacciono, dicono, mi piacciono gli esperti. Sì, sono d'accordo. E poi, in quanto uomini veri, insomma, la moda maschile, ormai lo sappiamo, ha una grande visibilità al pari di quella femminile, ha le sue figure di riferimento. Per il tema appunto di questa puntata ho scelto Mariano Di Vaio, 27 anni, fashion blogger, 4,8 milioni di follower su Instagram, insomma. Accidenti. Marta, non da poco, tra i più seguiti in Italia, ma non solo, è appena uscito con un libro intervista, si intitola My Dream Job, un libro in cui racconta la sua storia di successo, ma ci dà anche uno spaccato del mondo degli influencer legati alla moda. Lo abbiamo intervistato, ecco che cosa ci ha detto. Diciamo che il libro cerca di sviscerare un po', di raccontare un po' quella che è stata la mia avventura e tutto il tragitto, il viaggio che ho fatto, che è stato proprio un vero e proprio viaggio, perché è iniziato con appunto con il partire di casa a 18 anni e da lì tutto un susseguirsi di avventure più o meno divertenti, più o meno piacevoli, che però hanno fatto sì che tutto ciò si realizzasse. Un tempo i fashion blogger erano mal visti da stilisti e case di moda, oggi non è più così, anzi vi cercano. Ci sono ancora quelli che sono un po' restii a capire questo mondo, ad accettare che noi, parlo di noi come me, i miei colleghi, insomma, che fanno il mio stesso lavoro, insomma, non siamo tanto bene accetti ancora in alcune situazioni da alcune persone, sono quelli un pochino più old school, le chiamo io. che vedono i blogger o comunque le persone che vivono sui social un pochino, non saprei come descrivertelo bene, però non le vedono molto bene nel mondo della moda. Però tanti adesso anzi hanno capito che possiamo essere veramente un vento nelle loro vele. Cioè io uso sempre questo paragone che mi piace molto, cioè noi possiamo essere tranquillamente il vento nelle vele delle idee dei grandi imprenditori, quindi possiamo aiutare e spingere le loro idee, i loro progetti. Da blogger a influencer, oggi quella che hai costruito è una professione che ovviamente ti dà da vivere. In che cosa consiste nella pratica questa trasformazione? Sì, all'inizio era molto una passione. Io studiavo, ancora lavoravo, dopo che sono tornato dall'America dai miei studi di recitazione a New York ho continuato a studiare all'Università Perugia, che è da dove vengo, dove sono nato. Lavoravo da mio padre al negozio, poi piano piano sì è cominciato a diventare sempre più impegnativo, sempre più mi richiedeva sempre più tempo questo lavoro, e ho capito che o facevo una cosa o facevo l'altra, quindi piano piano ho cominciato a mollare il lavoro, a mollare gli studi, purtroppo, però è stata così. E adesso però sono contento perché ho tanti ragazzi giovani che lavorano con me, ho il piacere di dare lavoro appunto anche a questi ragazzi, è diventata una vera e propria professione. E lo stavo guardando proprio su Instagram, cara Maria Luisa, completo elegante sneakers, guarda qua, effettivamente, e una foto come questa a 103.000 cuoricini. Può. 103.000 cuoricini sono tanti. Effettivamente, nella foto successiva è senza camicia e effettivamente... Vabbè Marta, lasciamo dai, perdere, okay. Mi sono distratta. No, dai, cambiamo argomento, sennò mi distraggo a guardare queste foto di Mariano Di Vaio, che dopo influenza anche me, questo influencer. Beh, devo dire, una storia comunque di grande successo. Davvero complimenti. È il momento delle nostre chicche, di andare a sentire che chicca ci ha trovato questa settimana la nostra Cristina Lazzati. Ciao Cristina! Ciao a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, se vuoi poi ti mando il link di queste foto, che così vedi un po' anche tu quello di cui stavamo parlando. Però so che con te affrontiamo un altro argomento. Sono pronta a mettere cuoricini su Mariano Di Vaio in tutti i modi, però che affrontiamo un altro argomento. È vero, siamo nella settimana di Pitti Uomo, ma siamo anche nella settimana in cui sono usciti i risultati di un anno di studi di molti studenti. Coincidono anche con le ultime sudate dei maturandi e anche con gli esami, i richiami degli esami universitari, che di solito iniziano più o meno, sono iniziati questa settimana e andranno avanti per tutto luglio. Insomma, studenti di tutto il mondo, unitevi. E guardando, ho visto una ricerca di prontopro.it, che è un sito di fatto che dispensa professionisti di vario genere, tra cui anche i professori, per le ripetizioni, e ho visto che le ripetizioni, ahimè, se i vostri figli sono stati rimandati a settembre, hanno dei costi veramente alti. Accidenti. E parliamo di una media, per cui per le materie scientifiche si va a 18 euro all'ora in media, per cui vuol dire che alcuni ne chiedono 50 e altri magari stanno sui 10-12 o 6-7. L'inglese costa un po' meno, la media è di 13,50 euro l'ora, e se andiamo verso le medie e superiori, il prezzo medio di matematica è 12 euro, mentre per le materie umanistiche, chiaramente italiano fra i temi eccetera eccetera, siamo intorno a 10 euro all'ora. Comunque i milanesi sono quelli che pagano di più, mentre Napoli e Catanzaro sono invece le città dove si trovano ripetizioni a un prezzo più basso. Allora mi sono detta, insomma, da mamma che comunque i figli li ha eccetera, mi sono detta, ma quante famiglie italiane cosa possono fare? Perché poi alla fine, parliamoci chiaro, il portafogli ci mette mano il genitore fin quando sono studenti. Quindi mi sono andata a cercare un po' cosa c'è sul web, ed effettivamente ho scoperto un mondo che, come dire, ai miei tempi non c'era. C'è un sito che si chiama Cervellotic, che mette al centro lo studente. Sarà lo studente che propone un quesito alla community di questo sito e dice, e propone, non so, il problema, quello che non gli viene, quello che non capisce, lo studio di funzioni, perché poi si va ovviamente verso liceo e università. A quel punto qualcuno glielo risolve in cambio di una somma piccolissima di denaro, e poi la soluzione rimane a disposizione anche di tutti gli altri, che faranno commenti sul fatto che comunque questa soluzione sia fatta in maniera adeguata, svolta in maniera adeguata, o così e così. Di fatto, infatti, questo sito si divide in cervelloni e studenti, quindi uno si può candidare tra i cervelloni oppure semplicemente per gli studenti. Stavo guardando Cervellotic con la K in fondo. Cervellotic. Esatto. Poi c'è Tutorando, tutorando ci si iscrive, si seleziona la materia sperando che non siano troppe e il livello liceale e universitario, e poi c'è una lista di tutor disponibili e si può scegliere un calendario, cioè si può fissare un appuntamento e vedere un po' come si chiama, a seconda del data di calendario, posso solo il martedì eccetera. Poi qui questi casi dipende un po' adesso per le vacanze, per le ripetizioni che ci porteranno, che porteranno i nostri figli, si spera a una promozione a settembre, visto che a giugno magari non c'è stata, magari saranno un pochino più intensive, poi in altri casi magari sarebbe più un accompagnamento. Ma c'è UMass, che è proprio più matematica, e questo ci racconta già di che cosa sono esperti su questo sito, anche ripetizione di matematica. C'è persino un sito che si chiama Ripetita dell'Istituto Treccani. Qui le mini lezioni sono di 10 minuti, per cui costi non ce ne sono praticamente, ci sono molti materiali che si possono scaricare, ma non per scopiazzare, per imparare a studiare un po' meglio. E andiamo avanti con DocCity, che è un network di portali, quindi mette tanti insieme, e c'è molto live tutoring, per cui ci sono molte ripetizioni che si possono fare online attraverso Skype, che è un mezzo che viene utilizzato da quasi tutti comunque. Poi c'è scuola.net, che forse è il più anziano, scuola con la K sempre, non con la Q però, ma con la K, e anche qui ci sono ripetizioni online di vario genere. Se vogliamo proprio risparmiare, proprio DocCity in questi ultimi giorni da 9 lezioni gratuite, qui bisogna iscriversi, ma le ultime rimaste saranno il 20, sia di italiano che di matematica. Per italiano si tratta di un'ora e mezza, di cui nella prima ora, per i maturandi questa è per chi sta facendo la volata, nella prima ora si aiuta un pochino gli studenti a capire quale tema scegliere. Se non l'hanno ancora capito fino adesso mi preoccuperei, però casomai proprio uno non ci abbia ancora pensato, questo è un momento buono. E poi in 30 minuti ci sono domande libere, il tutor risponde direttamente online. Che e bello! Bellissimo. E poi c'è matematica, che secondo me è ancora più interessante, perché ci saranno gli esercizi live dello scorso anno. Quindi si fanno tutti i vari passaggi, si fanno vedere come si risolvono, non saranno ovviamente gli stessi esercizi, però più o meno il livello di difficoltà sarà quello, quindi uno, diciamo che se finisci quest'ora di tutoring e più o meno hai capito tutto, ma già un po' la sapevi, vai più sereno a fare la tua maturità. Scusa Marta, i costi delle lezioni da decurtare dalla paghetta, se ancora esiste. Ah no, certo, perché come diceva Cristina, i soldi ce li mettono i genitori, esatto. Ma qua bisogna però tirare le somme, con l'impegno che è stato messo dai figli, qui è... non è che... Su questo sono perfettamente d'accordo, e se il figlio non ha soldi, perché di fatto ha paghetta, gliela dai tu, quindi gliela dai e gliela prendi, forse è meglio quantificarli in lavoretti di casa o piccole mansioni che di solito magari non gli spettano, ma che in questo caso possono tranquillamente fare, che non è solo buttare la pattumiera prima di uscire o mentre si esce, ma magari qualcosina in più, così almeno imparano anche a fare qualcosa in casa, visto che tutti dicono che ora che iniziano anche i bambini italiani, i ragazzi italiani ad uscire di casa, beh, che sappiano una volta usciti di casa anche cucinare, pulire 4 patate o a farsi una pasta asciutta. È verissimo, grazie Cristina Lazzati, davvero dei bei consigli, grazie Cristina. Grazie a voi, buona domenica a tutti. Grazie, tra l'altro mi piace perché sono anche delle occasioni per inventarsi un lavoro, il lavoro da tutor è molto molto certo. Interessante. Grazie Maria Elisa Pezzali, l'appuntamento con Essere Avere domani. Domani alle 22, per chi non potesse ascoltare, come sempre c'è il podcast. Il sabato del villaggio. Oggi è un grande giorno. Abbiamo battezzato un'alleanza nuova. A salute. Ma c'è bisogno di aiuto tuo io. Ma fa che? Ho fatto una l'unica che ci sta buona a tutto quanto. Papà ti stai facendo vecchia. E sei rimasto bloccato nel tuo passato e non riesci a vedere il futuro. A barca le danno da mano a tu gennare e a dove ci hai portato a tutto quanto. A Pietra e Gennare ci hanno a mettere i brilli, ma come andiamo noi? La già morì per far contento a mio padre. Si chiude troppo annanza. E si è appena conclusa su Sky Atlantic Gomorra 2, con un finale che ha lasciato tutti di sasso. Non vogliamo ovviamente svelare nulla, se non che Gomorra 3 ci sarà. Intanto gli attori della serie si godono un successo clamoroso. Bagni di folla al Taormina Film Fest, ad esempio, per Jenny Savastano, cioè Salvatore Esposito, che abbiamo incontrato. Per lui abbiamo davvero sfidato la folla. In realtà è sempre piacevole, è sempre qualcosa di nuovo, ma soprattutto mi fa capire quanto in realtà il progetto Gomorra è radicato all'interno della gente, dei fan, che era da tempo, forse non è mai stato così per noi italiani vivere l'attesa di spasmodica di questo martedì quando arriva Gomorra, quasi come le partite della nazionale. Ed è bellissimo perché significa che hai fatto davvero qualcosa di importante. Noi che rappresentiamo questo progetto ne siamo orgogliosissimi. Tanti ragazzi qui a Taormina, cosa ti chiedono i tuoi coetanei o poco meno che coetanei? A parte i selfie, gli autografi. No, in realtà tantissimi mi chiedono come poter diventare attori, come devono partire, da cosa devono partire. Ed è un dato di questi giorni che dice che le scuole di recitazione, da quando è uscito Gomorra, hanno avuto delle richieste quasi quadruplicate. Io sorridevo l'altro giorno perché ho incontrato il proprietario di una fabbrica di pelletterie che mi diceva che fino a 3 anni fa, prima della messa in onda di Gomorra, lui stava fallendo nel vero senso della parola e aveva 4 dipendenti e non sapeva come pagarli e tutto. Poi mi ha detto che dopo la messa in onda della serie c'è stata una richiesta di giacche di pelle così alta che lui ad oggi in 3 anni non solo si è ripreso ma ha circa 30 dipendenti e deve tutto a Gomorra. Però queste ahimè sono storie che raccontiamo solo noi, perché ad altri fa più notizia raccontare delle cose stupide che spesso attirano di più la gente. A proposito di questo, tu come ti comporti quando vai in onda la serie? Leggi, non apri i giornali, non segui le polemiche? No, per me le polemiche, soprattutto se sorgono su basi veramente stupide, non le considero nemmeno. Ascolto le critiche assolutamente, ma quelle critiche costruttive che possono aiutare me, Salvatore Esposito, attore, a fare sempre meglio. Le critiche fatte da chi fino al giorno prima guardava Peppa Pig veramente lasciano il tempo che trovano. Io ti vedo cresciuto tantissimo in 2 anni e sei cambiato, cioè Gomorra ti ha cambiato? Assolutamente, mi ha cambiato. Ha cambiato l'approccio di Salvatore Esposito con la comunicazione, con i fan, a livello social cerco di comunicare il più possibile con i ragazzi, perché poi sono loro che ti danno linfa, sono loro che ti danno magari degli spunti nuovi per poter crescere a livello umano ed artistico. Artisticamente c'è stato un lavoro continuato, anche perché l'essere attore è un mestiere che non finisce mai, quindi io dopo la prima stagione ho cercato di entrare ancora di più in questo che è un'arte bellissima ma difficilissima, e spero che i risultati siano visti. La domanda è banale, ma sogni, progetti, desideri? Ma progetti ci sono, 2 progetti, uno simpatico, l'altro un po' più autoriale, che parte a breve. Partono tutte e 2 a breve, e i sogni, a me piacerebbe tanto confrontarmi con il panorama internazionale per capire poi in realtà quanto noi attori italiani possiamo dire la nostra anche all'estero. Anche perché Gomorra vendutissima e vista dappertutto, sei pronto? Assolutamente, io sono nato pronto. Prima deve perdere ogni cosa, l'imperatrice, i figli e infine il suo trono. Ho prestato giuramento a voi, posso farlo e voglio proteggervi. E cosa possiamo fare per voi? Scardinare le porte dell'inferno. Riconquista il trono. Con ogni mezzo necessario. All'attacco! Uno regna, l'altro muore. Yeah. E torna intanto Marco Polo, lo dicevamo, serie che finiscono, serie che iniziano, la seconda stagione sulla piattaforma Netflix dal 1 luglio. Gli interpreti Marco Polo, Lorenzo Richelmi, il padre di Marco Polo, Pierfrancesco Favino, erano a Milano, li ha incontrati il nostro Adriano Palazzolo. Intanto Marco Polo, cioè Lorenzo Richelmi. Contentissimo, ovviamente. Le aspettative sono quelle degli spettatori e saranno soddisfatte, perché la storia evolve da tutti i punti di vista. E, cioè, la prima serie è stata un'introduzione. Un'introduzione a un mondo molto poco conosciuto, perché parliamo del Medioevo, in Oriente, Mongolia, eccetera. Adesso però entriamo nel vivo della storia e ci possiamo permettere di parlare un po' più dei personaggi e delle relazioni che li muovono. Senza spoilerare, quali sono le nuove sfide che Marco Polo dovrà affrontare? Beh, gli danno fiducia, danno responsabilità, quindi gli danno degli incarichi. Non è più il ragazzino che entra e deve capire come sopravvivere all'interno della corte dei mongoli. Adesso è diventato un uomo di fiducia del Khan e è cresciuto e sta prendendo in mano la propria identità, fatta da due culture opposte, tra questi due padri, e la sfida più grande sarà proprio prendere in mano e decidere chi Marco Polo vuole essere e chi è lui. E prima di dare la linea al giornale radio, sentiamo anche il padre di Marco Polo, cioè Pierfrancesco Favino. Far parte di Netflix in questo momento, di un cambiamento culturale così importante dal punto di vista dell'audiovisivo, mi fa molto piacere. Sono sempre stata una persona che cerca nuove sfide, nuovi linguaggi, ho sempre cercato di non ripetermi, per cui questa è una grande opportunità di stare dentro ad una cosa che mi piace, tra l'altro mi piace anche come fruitore. E, il mio personaggio torna in una maniera inattesa, ancora una volta a creare tensioni per quello che riguarda la vita privata di Marco, però anche, e qui però non voglio andare oltre, qualche cosa che potrà portare a una tensione che non è solo personale. Una chicca dal set, me la raccontate? Una chicca dal set, ce ne sono talmente tante. Beh, io direi di Mini. Esatto, noi abbiamo una assistente costumista che da 2 anni sta taiwanese facendo, che parla pochissimo anche inglese, parlava pochissimo inglese comunque. E noi sono 2 anni che le stiamo facendo un corso accelerato di parolacce italiane e ce la spediamo. Noi siamo in 2 parti differenti del set, lontane, con tutti gli inglesi intorno, la chiamiamo, gli facciamo, diciamo, di questa roba qui la spediamo, e dall'altra parte arriva dall'altra parte in un dialetto stretto, però cioè, sta facendo progressi anche lei, diciamo, in romanaccio. Bruciapelo, la vostra serie preferita su Netflix? Wow, domandona. Beh, io direi Peaky Blinders adesso, perché se... Io sarò un evergreen, però io Breaking Bad, vedo, rivedo, vedo, rivedo, vedo, rivedo, vedo, rivedo.